Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, Luca Tremolada al microfono, Guido Romeo. Oggi puntata speciale, la dedichiamo alle bufale scientifiche che hanno contraddistinto quest'anno, ma non solo. Vero, Guido? Beh, abbiamo le ultimissime, ma ne abbiamo anche alcune, come dire, storiche, bellissime, che non indimenticabili, che hanno segnato la storia della scienza e dell'umanità. Allora, del giornalismo. E del giornalismo, perché chiaramente anche noi ci abbiamo messo lo zampino, nel senso che abbocchiamo, mica da ridere, cioè abbocchiamo un sacco. Vabbè. Siamo quelli che abboccano per primi, in realtà. Abbocchiamo per primi. Allora, partiamo dall'inizio. Erano urla di animali, di bestie aggressive, erano lotte. Perché le, perché queste? Ma io credo che fossero dei trader di borsa questi. No, questo non era male. No, è l'aggressività. Perché l'aggressività, Guido? Ma dicevo trader di borsa perché sui, proprio sui giornali negli ultimi tempi è uscita di nuovo questa cosa che l'aggressività è stimolata dal testosterone. In realtà, proprio su Nature pochi giorni fa hanno dimostrato che il testosterone provoca, aumenta l'aggressività nei topi, ma negli uomini fa ben poco, anzi addirittura ha un effetto livellante, perché hanno fatto un test. Cioè, livellante nel senso che, cioè, ci tranquillizza, no? Riequilibra da un certo punto di vista. Beh, guarda, quello che hanno mostrato in questo esperimento, in cui hanno somministrato a una ventina di donne in delle situazioni di trading, cioè di negoziazione tra di loro, le hanno confrontate sotto effetto del testosterone e senza l'effetto del testosterone. Sotto effetto dell'ormone la differenza è che erano più leali, quindi in realtà il testosterone potrebbe essere un ormone della lealtà piuttosto che, ma quello sulle donne, però sulle donne l'hanno fatto perché c'è un problema di interferenza poi con le altre funzioni negli uomini, insomma gli uomini tendono a diventare troppo calvi se hanno troppo testosterone, insomma, quindi magari è vera comunque questa cosa qui, che insomma lo dici tu. Tu ne hai un sacco, ecco, ne hai un sacco. Va bene, tu hai un ne sacco, ho un sacco, ecco. Il che però significa che anche sono un maschio alfa. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo avanti con una delle, sempre tra le ultimissime. Le ultimissime, anzi, diciamo che questa è strettamente di attualità: il raffreddamento globale. Sentiamo come i Blue Man hanno festeggiano su internet, su YouTube, in televisione, insomma, la Terra, il riscaldamento globale, questi temi. Your attention, please. Thank you for choosing Earth as your planetary vehicle. We hope you enjoy the many wonderful features of this planet as you hurtle through the cosmos. Please note, however, that in the event of continued inaction in the face of global warming, your seat cushion can be used as a flotation device. Also, please take a moment to locate this planet's emergency exits. As you can see, there aren't any. Earth. To America. Can you hear? Sending out a message. Loud and clear. insomma, erano questi, i Blue Man sono dei grandissimi cabarettisti, a Las Vegas, trio. Performer, un trio tutti vestiti di blu, cercateli su YouTube, tutti vestiti, tutti pitturati di blu. Sono venuti anche in Italia, anzi ormai è quasi un franchising, talmente si è diffuso. Però insomma, parliamo alla ciccia, insomma... Qualcuno a un certo punto ha affermato: guardate che sono tutte balle quelle del riscaldamento globale, anzi la Terra si sta raffreddando. Ecco, hai detto bene, questo in pratica è un filone non nuovo ma in piena crescita, quello delle bufale climatiche. Sarà che c'è stato l'effetto Copenaghen e sono uscite tante cose, la questione dei mail hackati dai server inglesi, ma poco prima questa è cominciata addirittura a metà dell'estate più o meno, ed era questa storia del raffreddamento globale, cioè, tra l'altro ci sono caduti tutti, tutti. La BBC, Le Monde, Der Spiegel tedesco, la stampa. Cioè, è stato proprio un inciampo, anche perché poi giornalisticamente come fai a non darla questa notizia? La verifichi, tu dici, e infatti la storia è lì, questa è una storia di grande bufala ma anche una storia di grande giornalismo, perché quello che, come dire, ha sgonfiato la bufala è stato un grande cacciatore di bufalone, Seth Berenstein, un giornalista dell'Associated Press americana, che ha avuto tanti tagli l'Associated Press, ma ancora una piccola unità di, come dire, di giornalismo investigativo. Seth Berenstein è andato a verificare, ha fatto una verifica veramente scientifica, ha preso i dati che erano appunto citati per mostrare questo raffreddamento, li ha inviati a quattro diversi climatologi senza dirgli che cos'erano, dicendogli semplicemente, dandogli soltanto i dati grezzi, dicendogli: metteteli a posto, metteteli un po' in ordine. Non gli ha detto che era un giornalista del Associated Press, ha detto: mostratemi che tendenza c'è, come vanno questi valori, eccetera. Beh, il risultato è che tutti e quattro hanno detto che questi valori crescevano e che c'era sostanzialmente un aumento di temperatura. E quindi, come dire, ha fatto la prova in doppio cieco, come si direbbe in termini medicina, scientifici. E la prova in doppio cieco dice che c'è un riscaldamento e non un raffreddamento o una pausa nel riscaldamento. Nonostante questo, vabbè, lo ricitiamo sempre, il Climate Gate, per cui insomma ci si prova in ogni caso. Adesso non dobbiamo prendere parte, probabilmente qualche scienziato ha sbagliato, magari qualche scienziato ha anche ritoccato, però insomma i dati grezzi ufficiali danno un'indicazione che è quella, è incontrovertibile: la temperatura, diciamo, sale. La temperatura sale, gli anni più caldi dell'ultimo secolo e mezzo. Pensa se entriamo noi a far parte di una bufala, cioè ti immagini, cioè tra 20 anni c'erano anche quelli della radio che hanno detto la temperatura sale, così scientifici. Passeremo alla storia. Passeremo alla storia, e passiamo alla storia anche perché abbiamo un'altra grandissima bufala storica. Era la sigla dei Flintstone, no? Dei cavernicoli, ti ricordi? Anna Barbera. Tu li guardi i cartoni animati, no? Li guardavo, smesso. Li guardavo, smesso. Male, sì. Il bambino dentro di noi, Pascoli, lasciamo perdere. Però, insomma, di che cosa parliamo? Qual è questa bufala? È la storia dell'uomo di Piltdown, anche questa, come dire, un classico delle bufale, anche perché... L'anello mancante tra l'uomo e la scimmia, me lo ricordo. L'anello mancante tra l'uomo e la scimmia, ma soprattutto... È inglese, è britannico. Tu pensa che, insomma, è una bufala che è durata 40 anni questa. È uscita nel 1912, quindi ormai un secoletto fa, ed è stata sconfessata finalmente nel 1953. Ci si sono messi di mezzo Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, e tutti i personaggi dell'epoca. Ma per farla breve, la storia che cos'era? Che ci sarebbe stato... l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia sarebbe stato trovato a Piltdown in Inghilterra, nel Sussex. Questo era fantastico, era una gran notizia perché toglieva agli asiatici il primato dell'evoluzione. Certo, dell'uomo più antico, il primo uomo, della culla della civiltà, per cui c'era anche una questione di supremazia politica anche da un certo punto di vista. Mettiamoci agli inizi del secolo scorso, insomma, c'erano tutti questi stati-nazione, c'era l'Europa. Chi è il più antico? Io sono il più antico, quindi dominerò la terra. No, insomma, la chiave non è un po' solo, quella. Poi non era europeo, era inglese che aveva il primo mia. Uomo. Spiego. Poi è arrivata la prova del fluoro, sono arrivate prove chimiche sulle ossa e hanno visto che poi non realtà... era la prova del fluoro, non del fuoco. Io sto dicendo, la prova del fuoco, no, del fluoro. No, del fluoro. È giusto, del fluoro. Perché è quella che va un po' a misurare l'età. È andata a misurare l'età, ha scoperto che in realtà i pezzi, diciamo le ossa, i frammenti che componevano questo uomo di Piltdown erano di tre specie diverse di 500 anni fa, c'era una mascella di orangutango. Era un remix sostanzialmente. Era un remix fatto molto bene perché c'era il cranio di un Homo sapiens di insomma 500-600 anni fa, e quindi un bel cranio voluminoso che faceva vedere che avevamo subito, gli inglesi erano nati subito con la testa grossa, il cervellone, e poi la mandibola di un orangutango, e poi c'erano dei denti di scimpanzé per condire il tutto. Un orrendo cyborg preistorico. E l'autore non è mai stato scoperto, quindi a tutt'oggi rimane, c'è un pezzo di mistero. Una beffa anonima. E restiamo ancora, sono ancora i Flintstone, quindi parliamo ancora di evoluzione dell'uomo. Sì, però questa volta passiamo in Germania, perché qui c'è uno scivolone che è molto più recente e che ha interessato nel 2005, quindi non moltissimo tempo fa, veramente un Herr Professor, come dicono in Germania. Emerito professore dell'Università di Francoforte in Germania. Rainer Prötsch von Zieten. Tra l'altro poi è stato sospeso per questa... Ah beh, lui ha finito la carriera. Perché insomma, scoprendo l'ultima bufala che aveva creato, che era appunto questo cranio. Il cranio di Paderborn, appunto, una creatura testa che veniva praticamente questo cranio qua, se ho capito bene, dimmi tu Guido, è stato attribuito a una creatura che era vissuta 36.000 anni fa. Sì, quindi una creatura in qualche modo parallela alla nostra specie, leggermente diversa. È stato sconfessato il cranio di Paderborn, ma è venuto fuori anche, come dire, la balla che aveva fatto prima, cioè per la quale gli avevano dato la cattedra a von Prösch, che era... Ma lì tra l'altro funziona così, cioè tu, io scopro, almeno dico di scoprire un cugino dell'uomo, un lontano parente, così tac, università, cattedra. Sì, tu scopri cattedra. Il tuo cugino, ti danno un posto, una cattedra. Non sarebbe male. Tu prova. Ne ho uno pronto, non sarebbe affatto male. Fa un po' scimmia. Però il tema è questo, cioè nel senso che per loro la carriera si basa anche da questi passaggi, cioè anche da botte di fortuna, anche volendo. Per cui se quando non arriva la fortuna cosa fai? Arrivano le pinze, le tenaglie e la lima. Le bufale. Per alcuni sì, in realtà questi sono casi macroscopici che viene facile anche raccontare, però se ti ricordi qualche anno fa era uscita una statistica, un sondaggio anonimo anzi, su quanti ricercatori avevano ritoccato i loro dati, ed era nell'ambiente medico, biomedico, ed era impressionante perché più della metà diceva di avere ritoccato almeno una volta nella sua carriera un dato per farlo apparire coerente. Anche lì escono queste notizie, noi le raccontiamo, poi cala un silenzio raggelante, perché poi di fatto la domanda vera, vabbè, ma se tutti insomma tirano le cifre un po' da una parte e dall'altra, che succede? Allora, la lezione per noi che andiamo a raccontarle ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, è sicuramente che dobbiamo cercare invece di ricordarcele e farne, come se, E poi controllare, però controllare, cioè un lavoro da investigatore privato. Assolutamente. In questo senso i dati sul clima certamente sono i più controllati, forse di tutta la serie scientifica, molto di più rispetto alla medicina, alla farmaceutica, certo, e tutto il resto. Adesso ti sfido, vediamo se indovini chi è la persona che sta parlando adesso. I'm Alan Sokol. I'm a physicist by profession, and my book is about the importance of science in public life. But not the gadgets that you might think, not even the knowledge about the world that makes those gadgets possible. My book is about the importance of the scientific attitude, namely the commitment to testing all our theories through observations and experiments, and to revising or discarding the theories that fail the test. That's the critical spirit that I think the rest of the world can take from science, and it goes far beyond physics and chemistry and biology. Now, l'ha detto, l'ha anche detto, è Alan Sokol. Chi è Alan Sokol? Alan Sokol è stato, devo confessare, è stato uno dei miei miti, perché ha preso in giro tutti, preso in giro proprio la sua stessa comunità di colleghi. Sokol, fisico presso la New York University. E come tutti i fisici, con la voglia di scherzare certe volte, ma in maniera molto seria. È un bello scherzo, nel senso. E ha fatto un bello scherzo. Ha preso per il naso mezza comunità scientifica, quest'uomo. Sì, poi lì c'è anche un discorso di rivalità tra la comunità delle scienze dure e le comunità delle scienze più umanistiche. Perché il punto di Sokol, che intanto ti dico cosa ha fatto. Lui ha pubblicato in una rivista di studi culturali che si chiamava Social Text, ho pubblicato un testo complessissimo. Io ai tempi me l'ho anche scaricato, avevo anche cercato di leggerlo. Perché sei un coraggioso. Sì, un po' masochista anche, perché per dirti, si chiama Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Quindi... Che una roba, diciamo, che in italiano... nella normalità, se uno vede un cartello del genere, cambia direzione. Perché, però effettivamente ci sono un po' di elementi, l'ermeneutica, la teoria dei quanti, cioè, insomma, ha messo insieme un po'. L'ermeneutica, cioè questa era, capito, rivoluzionare l'ermeneutica della gravità quantistica, cioè... Cioè, roba... Sì, esatto, che però sembra... Top. Metto insieme cose complesse, vediamo come reagite. Infatti hanno abboccato tutto il peer review, tutto il sistema di revisione della rivista, ha detto, un articolo fenomenale, gli hanno pubblicato, e poi lui ha raccontato in un'altra rivista, Lingua Franca, dicendo questa qui era una balla solenne, mi sono inventato tutto, questo era totalmente nonsense, non avete capito che niente. Poi, che poi la chiave vuol dire che... Chi giudica poi, insomma, chi valuta questi articoli, quando non capisce, per non fare quello che non capisce, dà un voto alto. Non è naturalmente così, stiamo scherzando. No, diciamo. Però ha evidenziato in maniera scientifica questo rischio, che molti, non capendo, pensano che però questi, il difficile questi sia... Questi dovevano perdere il lavoro, però, cioè, dal mio punto non di vista... Non so che cosa abbiano fatto, io ti tiro anche uno scherzo, se però tu mi dici che ho scritto un'opera che cambierà la storia del pensiero, della filosofia dell'uomo, e non è vero, perché ti ho preso per il naso, insomma, il mio mestiere bene, non lo so fare. Ma quindi quell'articolo sull'etica... Andiamo avanti. No, punto, siamo al sesto punto, il Siero Bonifacio. Ma qual è la storia qui? La storia, tra l'altro, appunto, è dietro a casa nostra, perché provincia di Salerno, Liborio Bonifacio. Ma dietro a casa nostra, stiamo a Milano, cioè. Vabbè, qua siamo andati dall'America, dal Paleozoico, tutto quanto. Perché tu hai un mondo, hai una condizione delle distanze chiaramente globali e planetarie. Vabbè, comunque, Salerno, provincia, un paesino, un veterinario tale Liborio Bonifacio osserva di non aver mai riscontrato forme neoplastiche nei caprini. Nei caprini, che cioè sono le capre. Naturalmente. Cioè, cosa vuol dire? Forme neoplastiche, cioè nelle capre non lui c'è non, il tumore. Non avevano i tumori. Le capre non avevano il tumore. Perché? Poi si può disquisire delle tante spiegazioni, molto semplicemente perché morivano troppo presto. Perché esatto, è che lui, tra l'altro, cosa fa da questa osservazione? Ci scoperta, tira fuori il siero. Prima fa l'osservazione, la pubblica, ci fa un libro all'inizio degli anni 70. Tra l'altro, il titolo era La mia cura contro il cancro. Esattamente, ci tira fuori il famoso Siero Bonifacio, che è poi anche questo un classico delle grandi cose, delle grandi rimedi. Esiste ancora, secondo te? Sai, lui nel libro dà la ricetta, ci serve un po' di estrementi di capra, devi mescolare. L'hai letta? Sì, certo, me la sono letta. Non l'ho come non dire, l'hai assunto, ingerita, non l'hai l'ho assunta. Ingerita per evidenti motivi, mancavano le capre. Però secondo me, se facciamo una colletta, tu che sei legato al denaro, ma possiamo fare un esperimento. Un esperimento, sì. 50 euro Guido Romeo berrà tutto il siero di Bonifacio. Le stiamo passando in rassegna quasi tutte. Se non sono tutte, se non tutte, segnalatecelo perché sono bellissime storie tutte alla fine. Beh, sono bellissime bufale più che bellissime storie. Allora, era acqua, liquidi, cos'erano? Erano fiumi, torrenti, scrosci. Era la memoria dell'acqua. Era la memoria, la presunta memoria dell'acqua. Era il 1988, se non sbaglio. È una storia che è cominciata nell'88, ma ha avuto strascichi e poi fino oltre la metà degli anni 90. E forse qualcuno ricorda Jacques Benveniste, che era un grande medico francese, una promessa dell'Inserm. Oltre 200 pubblicazioni, assolutamente, cioè, mica... ma poi insomma veramente anche con grande presenza, il grande intellettuale francese, citava filosofi, visionario, ci piaceva tanto, Collège de France, bell'uomo, perché bell'uomo e anche donnaiolo, a quanto pare, molto affascinante. Fino a quando su Nature cosa va a firmare? L'idea che va a firmare, ed era un po' diciamo la prova provata dell'omeopatia, se vuoi, era la memoria dell'acqua. La memoria dell'acqua. Che cos'è la memoria dell'acqua? La memoria dell'acqua era un articolo di Benveniste nel quale mostrava che diluendo un elemento, una molecola, un farmaco nell'acqua oltre una concentrazione visibile, riscontrabile con strumenti scientifici, l'acqua manteneva le proprietà, cioè memorizzava le proprietà. Si ricordava come era fatta, mettevi un'aspirina nell'acqua, la diluivi oltre la concentrazione di Avogadro, come si fa nell'omeopatia, esatto, tra parentesi, e quindi tu non avresti più l'aspirina in quell'acqua, però l'acqua si comporta come se avesse l'aspirina. Per e ti cui dà si ricordava di aver subito questa aggressione. E questa era la prima puntata, perché poi c'è stata anche la seconda puntata della memoria dell'acqua, come dire, la vendetta, la memoria dell'acqua colpisce ancora, nella quale 5 anni dopo Benveniste proponeva di essere riuscito a registrare la memoria dell'acqua, cioè gli impulsi elettrici delle molecole, di stoccarli su un disco rigido e trasmetterli via web. Ti ricordo che intanto era partito il web, e quindi bisognava fare qualcosa sul web, come direbbero adesso, no? Che funziona così, cioè per andare sui giornali bisogna passare anche da lì. In realtà che cosa successe? Insomma, la memoria dell'acqua a tutt'oggi non è ancora stata scoperta. La memoria dell'acqua è stata scoperta, l'omeopatia come principio fondante, l'omeopatia, questo non è assolutamente stato dimostrato e quindi non è verificato. Detto questo, diciamo che insomma un conto è capire la ragione fondante dell'omeopatia, un conto è l'adozione dell'omeopatia, sono due cose diverse. Finora la ragione fondante, diciamo l'effetto che è stato misurato negli studi sull'omeopatia è soprattutto quello placebo, non c'è un effetto dato dalle molecole di diluite. Sappiamo, adesso sta nascendo una discussione tra me e Guido Romeo, sappiamo anche che in medicina ci sono delle cure che non hanno necessariamente una ragione fondante ma che funzionano, no? Come? L'effetto placebo. Nova Lab 24. Luca Tremolada, Guido Romeo, entrambi al microfono. Le bufale che hanno contraddistinto la storia presente, passata, futura non si può dire, però presente e passata lo possiamo dire. Le stiamo passando in rassegna quasi tutte. Se non sono tutte, se non tutte, segnalatecelo perché sono bellissime storie tutte alla fine. Beh, sono bellissime bufale più che bellissime storie.

che secondo me venivano a mancare le neoplasie dei connettivi. Intendo, che significa? Dei connettivi. Il che il professor Veronese ha approvato, però poi nei protocolli definitivi questa aggiunta non è stata fatta. No, questo non conta nulla, però ai fini della validità vale lo stesso. Ebbene, ma quando io non so la descrizione di tutte quante le caratteristiche degli ammalati e io ho avuto contatto con i medici soltanto perché ho fatto 3 ore di lezione una sera all'ospedale di Modena, a Ramasina. Sono stato chiamato dalla USU, sono andato lì, ho detto i principi del mio metodo, mi sono dichiarato disposto a dare tutte le delucidazioni che i medici avessero voluto, non sono stato mai più chiamato. Perché lei sarebbe stato disposto ad andare nei vari centri di sperimentazione? Io mi sono dichiarato disposto. Non sono stato mai chiamato. Ma lei, professore, mi scusi, si aspettava alla fine questi risultati così negativi, un altissimo numero di decessi, una praticamente quasi inesistente percentuale di regressioni? Ma quando già è da mettere in dubbio l'esattezza con cui vengono fatte le sostanze che io propugno per il mio protocollo, intendo parlare della presenza di acetone dentro, va bene? Quando si arriva a questo punto qui e non si capisce una cosa elementare, che l'acetone interviene sopra quei medesimi recettori in gran parte sui quali... Lei quindi, professore, di questo poi ne parleremo tra poco, ma insomma, in conclusione, lei sostiene che non è stata applicata la terapia di Bell. Esatto. Allora, te lo ricordi? Era qua, sì, parliamo di una bufala tremenda. Questa è una bufala tremenda. E anche pericolosa. Pericolosa questa, perché eh? Tanta gente poi ci ha rimesso anche la vita, perché molti hanno abbandonato la chemioterapia o fatto abbandonare ai figli la chemioterapia per andare a fare la terapia di Bell. Ecco. E iniziò, in realtà iniziò per un caso, se vogliamo, non giornalistico o non scientifico, ma iniziò perché un pretore, famoso pretore di Maglie, diede ragione a un paziente che voleva rimborsata la terapia fatta con il dottor Di Bella a Modena. E io in realtà stavo pensando, pensa se fosse successo oggi con tutta l'attenzione della politica nei confronti dei magistrati, veniva fuori un dramma oggi come oggi, eh? Ma cioè, sai, la politica si sarebbe divisa di colpo. Ma se ti ricordi si divise anche a quel tempo, perché venne fuori, sì, che la destra appoggiava Di Bella, sì, e la sinistra non si sa, però poi Rosi Bindi, che al tempo era ministro della sanità, fece la sperimentazione, poi la sperimentazione non fu conclusiva, Di Bella disse che non andava bene come era stata questa fatta. Questa vicenda si trascinò, si forse per troppo tempo, con troppe responsabilità anche forse del mondo giornalistico, e forse bisognava darci un taglio, lasciare che gli scienziati conducessero le loro verifiche senza seguire, però insomma questa è un'opinione personale. La lezione senz'altro è quella che una volta che, come dire, la storia, il tema tracima dall'ambito scientifico ed entra in quello giornalistico politico, gli scienziati non hanno più il controllo e quindi lì se ne impossessano tutti. Io mi ricordo un sondaggio sugli articoli usciti sul Corriere della Sera nell'arco di 2 mesi su Di Bella, scrissero 47 diverse firme per dirti di tutto e di più, uscì e scrissero di tutti, insomma, dagli editorialisti ai cronisti politici, insomma. Mamma mia. 1970, Linus Pauling. Tu hai giustamente titolato nella scheda che ci stiamo scambiando: quando 2 Nobel sono troppi per una vitamina. Beh, io in genere quando uno scienziato ha un Nobel e afferma qualcosa che non è relativo al suo tu Nobel, gli credi. No, no, diffido, dice, subito attenzione. In guardia, perché c'è la famosa sindrome da Nobel, cioè che una volta che tu sei hai il Nobel, dire quello che ti pare. Beh, l'ha detto un Nobel, cavolo, no? Gli viene quindi chiesta anche la nazionale di calcio e bisogna starla a sentire. Esattamente, e quindi i Nobel, come dire, sono molto più a rischio di tanti altri personaggi. Pauling, per la cronaca, ha avuto un Nobel per la chimica nel 62, nel 54 per la chimica, nel 62 per la pancia. Per la chimica, perché scoprì la struttura alfa delle proteine, quindi una cosa importantissima. Però dopo quello ho avuto per la pace, negli anni 70 incominciò a sbilanciarsi, perché incominciò a dire che c'è anche un fattore d'età che conta, questi non sono ragazzini, cioè dopo il primo. Tu sei più vecchio di me, quindi diciamola questa cosa. Avanti. E cominciò a dire a sbilanciarsi, cominciò insomma a essere un po' interventista su tutti i campi del sapere, la mettiamo così. Sì, e arrivò a dire appunto che la vitamina C distruggeva i germi del raffreddore e addirittura aveva funzioni contro influenza, ma addirittura contro il cancro. La cosa poi è stata presa sul serio non solo dai giornalisti. Io mi ricordo quando ero a scuola di giornalismo era un caso di, come dire, un caso di studio, perché dice, tu sei da solo in agenzia, ti arriva la notizia che uno due volte Nobel ha detto questa cosa qui, cosa fai? La vitamina C cura l'influenza ma anche il cancro, cosa fai, la passi o non la passi? E lì ci si divide, la passi chiaramente, la passi. Giornalisticamente la passi, però poi quando vai a letto non dormi. L'importante è passare anche gli altri tre studi che hanno fatto dopo nel 93, insomma, e hanno stroncato completamente la noi teoria. Non ti stronchiamo, anzi io non ti stronco, però ti fermo perché ci prendiamo una brevissima pausa. Nova Lab 24. Bentornati, sempre Luca Tremalada, sempre Guido Romeo, sempre le bufale. I boatos, i hype, le balle, insomma. Le balle, insomma, ecco, parliamo di questo. Finiamo l'anno in bellezza. Andiamo avanti. Beh, una bufala bella, grassa e vigorosa è quella delle scie chimiche, sempre in salute, ogni tanto torna, l'avrete avvistata sul web, le foto, e naturalmente all'origine chi c'è? C'è il solito blogger americano, in questo caso Richard Finke, che nel 97 addirittura lui cominciò con queste foto a distribuire, tra l'altro con internet queste foto hanno fatto veramente il giro del mondo, mentre prima erano, non so se ti ricordi, anzi non ci ricordiamo, ma sappiamo di quelle riviste scandalistiche, patinate ma neanche poi tanto, patinate a grana un po' grossa, esatto, dove c'erano le interviste, ho conosciuto l'alieno, ecco. Lì è vero, internet ha aumentato la diffusione, e poi c'è tutta la computer grafica che insomma apriti cielo, i photoshoppisti. La base comunque da cui è partito Finke era in qualche modo vera, perché erano foto della NASA. La NASA aveva dei bellissimi archivi che mette a disposizione sul web a tutti, ma in realtà queste scie chimiche, che sono quelle tracce, ricordiamo, che si vedono spesso in cielo anche da noi, sono queste scie di vapore, Finke sostiene che siano in realtà contengano degli additivi chimici e siano, facciano parte di un po' un complotto globale, esatto, per controllare la popolazione della Terra. È stato alzato un allarme, ci sono state 3 interrogazioni parlamentari nel Parlamento italiano un paio d'anni fa. Ma un allarme si alza, l'abbiamo detto tutte e due. Ma si lancia, è stato lanciato un allarme. È stato lanciato, è stato anche abbassato. Si è sgonfiato. Comunque, tutta una bufala. Ecco. Una bufala. E poi ci abbiamo un'altra bella bufala. Questa è quasi storica. È di 5 anni fa. No, di più, del 2002. Quella di Cloneida. 2002 a 7 anni fa. 7 anni fa, quasi 8. Quasi perché 8. Infatti uscì, se vi ricordate, proprio in questi giorni, a fine anno, nel 2002, quando i israeliani, la famosa setta dei figli di Israel, che è comparsa anche nei romanzi di alcuni scrittori come Houellebecq, uscì dicendo proprio sotto Natale che era nata la prima bambina clonata. Ah, adesso mi ricordo. Era una bella storiaccia. Tremenda, tra l'altro. Tremenda, perché poi ci fu la caccia alla bambina, cioè Sì, ricordiamoci che il 2002 era ancora ridosso, insomma, della pecora Dolly, dei primi esperimenti con le cellule staminali. Sì, quindi... c'era una gran paura di ritrovarsi accanto con un clone, insomma, anche i giornali non hanno dato il meglio di loro poi stessi. Effettivamente c'era una scienziata, Brigitte Boisselier, che è una canadese, franco-canadese, che poi ha avuto varie vicissitudini, è stata processata, ma era una scienziata che aveva lavorato all'Inserm in Francia e tutto quanto, che diceva che, insomma, era riuscita a fare questa manipolazione, e faceva paventare anche un po' la questione che l'ingegneria genetica fosse in realtà di là da venire, anzi fosse al contrario, una tecnologia a basso costo e quindi diciamo abbordabile anche da una setta, un'associazione. Sì, poi si scoppiò proprio l'isteria, nel senso che si cominciò a pensare che nel mondo non c'era ancora Google Maps, però si ragionava in certi luoghi sperduti degli Stati Uniti stanno creando i coreani eserciti, lo stanno facendo gli eserciti di clone, insomma. È stato un dramma, anzi è stato un dramma, è stata una barzelletta poi più che un dramma. Beh, ci ha tenuti occupati sotto Natale, diciamo, ecco, che ecco. Io mi ricordo una mattina del 26 la dicembre, oddio cosa succede. Però ci siamo dimenticati, cioè una delle, forse la bufala più clamorosa e anche più nota, quella di Roswell. L'alieno di Roswell, la zona 57. La zona 51 o 57? No, la zona 51. 51, ecco. Che è quella che, l'area 51, che resta ancora nel nostro immaginario. Cioè. Beh, credo che la stiano desecretando in realtà. C'era un problema nella 51 di contaminazione, perché ci facevano appunto un poligono di tiro. Quanti quella, film sono stati fatti, ecco, sull'area 51? Tantissimi. Tra l'altro, cioè, torna anche nelle trasmissioni televisive. Cioè, quella è una bufala, ma fino a un certo punto, nel senso che l'alieno è sicuramente ed è clamorosamente una bufala, ma chi là sia successo qualche cosa o stia accadendo qualche cosa, ma io sarò un sognatore. Ma allora, l'alieno, ricordiamo che cos'era intanto, c'era questo famoso filmato che trovate anche su YouTube naturalmente, che è il filmato dell'alieno di Roswell, cioè vivisezionato di questa, ma è, no, non vivisezionato, ma comunque l'autopsia di questo cadavere di presumibilmente un pilota alieno di fattezze molto strane. In realtà poi, se lo rivedete spesso, si vede benissimo che ogni volta che la telecamera si avvicina al corpo va fuori fuoco, quindi uno non distingue mai veramente com'è fatta questa cosa. C'è stata comunque nel 95, ci fu un comitato del Senato americano che andò a fare un'indagine e andò a rivedere tutti i filmati, tutte le prove, desecretò anche vari archivi. La conclusione fu che sostanzialmente non c'era niente nell'area 51 che non andasse. No, però sai, se io fossi... Non c'era niente di alieno. Ecco. Esatto, non c'era niente di alieno, qualcosa di strano c'era, però... No, boh. Beh, ci sono i militari, quindi sicuramente infatti, c'è qualcosa di segreto. No? Parte del mistero era legato al fatto che era una zona off-limit, cioè... C'erano le fotografie dall'alto, io mi ricordo anche su internet viaggiavano queste fotografie, fotografata l'area 51, insomma si cercava con la rotellina del mouse di guardarci dentro, di capire, di individuare un disco volante, perché poi insomma l'idea era quella di dischi volanti o di alieni vivi lì nascosti, poi tenuti chissà per che cosa, poi però li tenevano lì, nell'area 51. Un alieno che si era perso. Ma poi non ci scordiamo X-File, vabbè, qua entriamo in un... Beh, entriamo nella fiction, chiaramente ci hanno ricamato tutti, questo anzi Hollywood gli ma giustamente solo, ma giustamente, anche perché è meraviglioso, un luogo realmente, cioè un luogo reale dove c'è il segreto della vita. Però aliena. Sai, questa cosa degli alieni si è un po' sgonfiata. Leggevo proprio l'altro giorno che governo inglese ha discontinuato, un po' anche per la crisi, per la carenza dei fondi, ma ha discontinuato il suo programma per la ricerca di vita aliena. Sai che discontinuato la prima volta, lo sento. Non è male. È un anglicismo, è vero. Comunque ha terminato, insomma, non hanno più i fondi, quindi hanno messo tutto in soffitto. Anche noi ci discontinueremo, no? Come si dice? C'è una soluzione di continuità tra noi. Vabbè, siamo discontinui, andiamo avanti. Altrimenti ti prendo in giro, ti prenderci in giro. Comunque. Allora, altrimenti mi prendi in giro come il moto perpetuo, perché esatto. Il moto perpetuo è un'altra di quelle bufole che tornano periodicamente. Ah, già, è vero. Questa è una di quelle proprio straclassiche. Però è per esperti questa, cioè non è che la sanno tuttissimi. È quella del moto perpetuo, dai. Dimmela. Che appunto che non esiste. Ah, oh, va bene. Andata bene. Avevi 50 e 50 di prendere. Andata bene, andata bene. Non esiste perché? Non esiste perché, per la stessa ragione per la quale noi siamo, possiamo camminare, possiamo muoverci in macchina, cioè per cui abbiamo degli attriti e scarichiamo una parte della forza che produciamo nel muoverci, e quindi perdiamo una parte dell'energia. Per la stessa ragione non può esistere il moto perpetuo, perché c'è una dispersione dell'energia sotto forma di calore, sotto forma di attriti. Però ci sarà sempre qualcuno che dice sì, però in determinate condizioni, se io ricreo in laboratorio, perché poi il mito del moto perpetuo infatti è nato lì. Ecco, Charles Redheffer, che è un americano, nel 1800 addirittura, all'inizio del 1800, lui propose la prima macchina per il moto perpetuo. Naturalmente non era perpetuo. Era anche il momento storico in cui c'era positivismo, c'era tante cose, innovazione in America, quindi queste macchine affascinavano e molti gli andarono dietro, e comunque tornano un po' sempre queste idee della conservazione dell'energia. Un altro, per esempio, tornano ma sotto diverse forme. Per esempio c'era, non so se te lo ricordi, John Canzius. No, anche questo è un altro che su YouTube lo trovi. Era quello che faceva bruciare l'acqua, che diceva di avere trovato l'abbiamo pubblicata anche noi comunque sul giornale, ti ricordi? Non è che si le legge che tutto andiamo avanti. No, io ho fatto delle mie ricerche in archivio e ho detto cavolo, ci siamo anche noi che l'abbiamo pubblicata in maniera critica, per carità, però l'acqua che brucia cos'era? L'acqua che brucia era un sistema che aveva inventato John Canzius attraverso una stimolazione per radiofrequenze, per cui si riusciva a ricavare energia, quindi a ricavare una combustione dall'ossigeno e dall'idrogeno presenti okay, nell'acqua. Adesso mi ricordo. E quindi, se vuoi, è nello stesso filone di energia. Titolo era dall'acqua possiamo trarre energia, sì. Adesso mi ricordo, per cui insomma dal mare, grande serbatoio, abbiamo risolto i problemi energetici del mondo. Non era vero nulla, ma fermiamoci. Facciamo gli auguri di buon anno, come è giusto che sia. Noi ci sentiamo nel 2010. E buon anno, e parleremo ancora di bufali, di cacciatori di bufali l'anno prossimo. Attenti alle bufale!